prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Nello spazio dedicato alla Caritas di questa settimana riprendiamo il giro delle diocesi e torniamo allora nella diocesi di Treviso. Incontriamo questa settimana un operatore della Caritas Tarvisina che è Davide. Benvenuto. Grazie mille. Allora, Davide è qui per parlarci di un progetto che riguarda il carcere di Treviso, il carcere di Santa Bona, che ha specificità unica del Veneto, anche il carcere minorile, giusto? Il progetto si chiama Diamoci Dentro. Esattamente, è un progetto che nasce con un finanziamento del Centro di Servizi per il Volontariato. Da pochi mesi ha preso il via concretamente dopo un lavoro di pianificazione, insomma, e soprattutto un lavoro di messa in rete, perché questo progetto raggruppa 10 associazioni. L'associazione Possibili Alternative, che fa un po' da capofila, ha aggregato attorno a 5 idee cardine in questo progetto varie realtà, alcune che già si occupavano di carcere, altre che hanno deciso un po' di mettersi in gioco all'interno di questo progetto, che per la prima volta a Treviso si riesce a radunare nella stessa iniziativa sia il carcere adulti, la casa circondariale, che appunto l'istituto penale per minori. 5 obiettivi, dicevi, ricordiamoli allora. Esatto, ma l'idea è quella, appunto, un po' in base alle caratteristiche delle associazioni che compongono la rete, che già lavoravano nel settore carcere. Abbiamo pensato di focalizzarci su 5 punti che tendessero a prendere un po' dentro tutta quella che è l'area sia interna che esterna al carcere. Per cui la prima iniziativa, il primo obiettivo riguarda un po' l'attivazione all'interno del carcere dei due istituti, in modo da attivare il maggior numero di detenuti possibile in attività creative, in ottica di dargli l'occasione di occupare in maniera positiva il tempo con piccole azioni, appunto, laboratoriali, sia artistiche che artigianali, diciamo, piccolo artigianato con la carta o con altri materiali poveri, insomma. Il secondo obiettivo riguarda la sensibilizzazione. Risulta importante parlare di carcere, proporlo come tema di riflessione alle comunità e alla cittadinanza, in un'ottica però propositiva, carcere come risorsa, non solo e solamente come problema. Il terzo aspetto è quello lavorativo, tirocini formativi per fare in modo che i detenuti che sono magari in misura alternativa, per cui fuori dal carcere, o chi sta completando il suo percorso, magari appena finito la pena, così riesca a trovare delle esperienze costruttive all'esterno, formative e lavorative. Quarto aspetto è la socializzazione, perché una volta che si riesce a occupare il tempo, bisogna anche però avere l'occasione di reinserirsi nella società anche con rapporti nuovi, cambiando magari il giro di amicizie. Questo aspetto, alle volte un po' trascurato, diventa veramente essenziale. Quinto e ultimo aspetto è quello abitativo, per cui sostenere la possibilità di accoglienze per chi, appunto, in uscita dal circuito detentivo magari fa fatica in questo aspetto qui, ecco. Per quelli che sono, appunto, magari verso la fine pena o che finiscono di scontarla, appunto, qui. Ovviamente anche il carcere di Treviso soffre di sovraffollamento come tutti gli altri, giusto? Esattamente, soprattutto questa problematica è più forte nell'istituto per adulti, in cui i numeri ormai sono cronici, insomma, è il sistema italiano che ha questo problema, e anche quello di Treviso. Contiamo che sono circa 300 i detenuti su una capienza regolare di 150, per cui quindi più rapporto del doppio. 1-2 che c'è, esatto, anche purtroppo da altre parti, mentre per il minorile, essendo più piccola come struttura, sì, diciamo che il minorile ha anche lì altre problematiche strutturali, certo, in cui sia l'amministrazione che il mondo un po' della società civile, del volontariato, delle istituzioni sta tentando di dare delle risposte, insomma. Rimane il fatto che anche l'istituto per minori a Treviso ha delle condizioni di vita abbastanza dure, insomma, per i ragazzi. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. È un un progetto molto articolato, dicevi Davide, non abbiamo detto però chi c'è dentro oltre alla Caritas. Esattamente, appunto si ribadiva che abbiamo come capofila l'associazione Possibili Alternative, poi si radunano l'associazione La Prima Pietra, BNET, il gruppo dei Giovani per un Mondo Unito, abbiamo Legambiente di Treviso e Legambiente di Maserada, anche se appunto Mari nel loro specifico non è propriamente l'aspetto del calcio, però hanno veramente avuto piacere di mettersi in gioco su questa nuova tematica, insomma portando tutta la loro esperienza. Poi abbiamo l'associazione islamica di Treviso che è partner e collabora a questo progetto, c'è Tonino Bello. E poi abbiamo come partner appunto la Caritas di Treviso, c'è cioè l'USL, collabora con noi per alcuni aspetti anche l'UEPE, che è l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, e anche quelli che si occupano di minori, insomma. E concretamente come intanto a chi vi rivolgete? Perché dentro al carcere abbiamo detto ci sono i minorenni, c'è il carcere per i maggiorenni, ma a questi maggiorenni dei 300 presenti a chi vi rivolgete? Esatto, lo specifico del progetto su sollecitazione appunto del centro di servizi per il volontariato che indiva questo bando, si tratta di giovani ragazzi, giovani adulti dai 15 ai 29 anni, per cui per quello che riguarda appunto il carcere adulti stiamo parlando quasi di un terzo dei detenuti sotto i 30 anni, per cui quasi un centinaio di persone. Ricordo appunto come collaborazione c'è anche l'associazione IPSIA che ci dà un sostegno per tutto quello che riguarda l'aspetto del monitoraggio, tutoraggio nella ricerca lavoro. E concretamente cioè come si svolge il progetto, ogni quanto, con quale periodicità? Il progetto appunto avendo questa complessità e questi obiettivi multipli ha una struttura organizzata in maniera che c'è una cabina di regia che si ritrova ogni 15 giorni per delineare un po' le linee strategiche. In questa cabina di regia sono presenti i rappresentanti di ogni associazione e ogni associazione in base alla sua esperienza e al suo statuto diciamo ha preso in sé la responsabilità magari di uno o due obiettivi. Su questi si cerca di concretizzarli in azioni sinergiche che cercano un po' di mettere in luce di volta in volta gli aspetti più importanti a cui si vuole dare risposta. Per cui c'è stata l'occasione di avere una giornata di sensibilizzazione e di festa in modo da porre al centro il tema del carcere, ma in maniera magari un po' diversa. In cantiere ci sono alcune iniziative nel comune di Spresiano e anche qui a Treviso si approfitterà un po' delle festività di Natale per rimettere un po' al centro questo aspetto. Le persone che vengono coinvolte, che poi concretamente tramite le associazioni ovviamente devono essere preparate all'incontro con i carcerati, quindi c'è anche un lavoro formativo precedente, esatto. No? C'è un lavoro formativo e anche un grande lavoro che ci chiama tutti in causa come volontari, ma come cittadini in generale, perché comunque affrontare il tema del carcere significa avere a che fare con l'errore. E che quindi ti impone davanti a situazioni e a persone che hanno percorsi di vita magari differenti da quelli abituali. Essere preparati a questo incontro è anche un po' la responsabilità che come associazioni insieme ci siamo dati. La trovate su Facebook, c'è una pagina che si chiama Diamoci Dentro con il logo giallo, le due mani che si incrociano, perché poi con questo slogan ci sono tante iniziative che trovate in rete. Chi volesse dunque può mettersi a disposizione, no? Sì. Noi accogliamo tutti a braccia aperte. La problematica di avere, abbiamo detto, il progetto rivolto a quelli che sono sotto i 30 anni tra i carcerati, con provenienze di storia, di nazionalità, di cultura, però le più diverse, no? Esattamente, questo sì, è un aspetto da tener conto. È anche vero che la condizione della detenzione accomuna spesso tutti quanti, insomma, e le problematiche che si vivono con sfumature diverse, ma sono le stesse, per cui riuscire a dare una risposta alle cose più concrete, insomma, del vivere. Questo è un po' l'obiettivo del progetto. Che poi l'obiettivo finale anche della detenzione carceraria, che è la rieducazione, no? Esatto, e questo è una responsabilità che spetta alle istituzioni, ma anche, insomma, crediamo che come cittadini dobbiamo fare la nostra parte nel tenere alta l'attenzione su questa tematica, che di sicuro non è al centro dell'agenda politica e non porta forse quella visibilità o quei risultati a livello di immagine che uno si aspetta. Siamo qui, presidiamo, lavoriamo, ci rimbocchiamo le maniche e aspettiamo chiunque ha voglia, insomma, di dare una mano. E allora grazie Davide, grazie a tutti i volontari, alla prossima. Grazie mille a voi. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.